Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Abbiamo parlato più di una volta di pompe di calore qui a Mr. Kilowatt. Oggi ci occupiamo di una particolare tipologia. Ma che cosa sono le pompe di calore? Beh, come abbiamo già spiegato, per capirlo basta mettere una mano sulla griglia che di solito si trova dietro ogni frigorifero per rendersi conto che questa è calda. E infatti per raffreddare l'interno del frigo è necessario trasferire il calore all'esterno. Ecco, una pompa di calore è un dispositivo in cui questo effetto di riscaldamento è preminente rispetto a quello di raffreddamento, questo d'inverno, mentre d'estate le pompe di calore possono funzionare come veri e propri motori di un sistema di condizionamento. Ebbene, di solito questi apparecchi sono alimentati a energia elettrica, mentre sono ormai disponibili sul mercato pompe di calore a gas che come tali promettono rendimenti energetici anche più alti. Ne parliamo con Alfio Castiglioni dell'omonimo studio termotecnico e che da anni si occupa di questa tecnologia. Buonasera Castiglioni. Buonasera a voi. Dunque, le chiedo di aiutarci immediatamente tanto a capire come funzionano questi oggetti che sono in grado di produrre, abbiamo detto, sia il caldo che il freddo a partire dal gas, quello che in fondo arriva in tutte le case degli italiani o quasi. Sì, sono pompe di calore ad assorbimento che utilizzano come comburente il gas metano e sfruttano un ciclo termodinamico di una miscela di acqua e ammoniaca. È un'idea venuta da Einstein nel 1930. Ah, però. E poi è stata migliorata, però di base il concetto è ancora questo di Einstein. Comunque sono dei sistemi che non hanno parti in movimento. Non hanno parti in movimento se non pompe fluidodinamiche che sono di bassissima assorbimento e spinte lo stesso dal ciclo frigorifero di cui è composto il gruppo di assorbimento. La peculiarità poi dei gruppi ad assorbimento è proprio questa, di avere come ultima fase finale un assorbitore che preleva questo calore, inteso sia come caldo che come freddo, lo trasmette al flutto secondario che è acqua normale, che quindi viene portata in fase invernale a una temperatura massima di 60-65 gradi, in fase estiva invece una temperatura di minima di 2 gradi, però la media che si usa è di 7-12 gradi per farlo girare nei circuiti normali. Ecco, diciamo che l'applicazione delle pompe di calore a gas è più o meno analoga a quelle delle normali pompe elettriche, quindi si fa molto bene il riscaldamento e il raffreddamento con i sistemi a pannelli radianti. Ne abbiamo parlato molte volte a Mr. Kilowatt, però mi pare che qui ci sia anche una capacità di funzionare discretamente anche in altre condizioni. Sì, perché ci sono due tipi di pompe di calore, quelle di assorbimento come abbiamo detto, quindi reversibili che fanno caldo e freddo, ultimamente invece sono state che progettate, sono sul mercato dalle pompe di calore a condensazione, quindi ad altissima efficienza, che arrivano a un grado di efficienza globale del 170%, quindi con un buon 40% ancora in più di un'ottima caldaia a condensazione, che fanno solamente il ciclo del caldo. Sempre col principio dell'assorbitore del gas. E quindi questo qui sarebbe il top di tutto solamente per il caldo, mentre invece per anche la refrigerazione estiva si hanno sempre dei rendimenti dal 140 al 160% di efficienza che sono normalmente sempre superiori alla media del COP dato da una pompa di calore elettrica. Il COP, certo, questo COP che è il parametro che dice quante volte rispetto all'energia che si butta dentro questa pompa riesce a rivalutarla. E comunque si possono utilizzare anche diciamo con i termosifoni che ci sono nelle case, perché con le pompe di calore elettriche non è che vada benissimo. No, ecco, quelle che dicevo prima, che sono pompe di calore solo per il caldo a condensazione, quindi ad altissima efficienza, col 170% di efficienza, arrivano a produrre acqua a 65 gradi, che quindi anche per un impianto di vecchia installazione, anni 70 diciamo, può funzionare tranquillamente anche con un impianto a radiatori normali, sia in ghisa che in alluminio. L'importante in questo caso è tenere presente la riqualificazione dell'impianto, ossia dotarlo di valvole termostatiche, intervenire sull'impianto in modo da ottimizzare sia la parte di distribuzione che la parte di emissione. È stato constatato, fatto prove, ormai ci sono decine e decine di condomini che funzionano così, facendo così si hanno notevolissimi risparmi dell'ordine anche del 30-35%. Con lo stesso impianto di riscaldamento. Benissimo, questa è un'informazione molto importante. Ecco, tornando sulle pompe di calore a gas strettamente, quali sono i tempi di payback? Intanto è uno cubotto di un metro. Proprio un cubotto che devono essere installati all'aperto, perché sono condensati ad aria e quindi devono stare proprio all'aperto. Quindi il calore lo tirano fuori dall'aria? Dall'aria oppure da fluidi secondari che possono essere sonde geotermiche, sonde in acqua, reflui di lavorazione di ciclo industriali come acqua di condensazione, insomma. Insomma, se c'è l'acqua è meglio, ma funzionano bene anche con l'aria, questo funzionano diciamo. Funzionano bene anche con l'aria fino a temperature di meno 12, meno 15 senza andare in punto di brinamento. Tranne che sul Cervino, insomma, vanno bene un po' dappertutto. D'accordo, senta, tempi di payback? I tempi di payback, se sono raffrontati a una normale caldaia, non a condensazione, sono di 2 anni e mezzo. Se invece sono raffrontati con una caldaia di ultima generazione, quindi a condensazione, siamo attorno ai 4 anni. D'accordo, va bene. Grazie allora Castiglioni. Va bene, grazie a voi. Bene, Mr. Kilowatt torna lunedì, parleremo di uno dei componenti fondamentali di qualunque impianto di produzione di energia elettrica a partire da rinnovabili, l'inverter. Prima di chiudere una piccola segnalazione, ricordo a tutti che è in corso la mostra convegno Expo Comfort alla fiera di Milano RO, si concluderà domani 27 marzo e insomma se siete interessati a questi argomenti vale sicuramente la pena di farci un salto. Buona serata.